passando l'altra notte tra il tevere e la luna. Ho visto su dal ponte due occhi come i miei. Ci ho visto dentro il cosmo e i cicli della vita. La sintesi infinita che mi parlò così. Sono il poeta stanco che non ce la fa più, che venne un dì dal mare o scese giù dal blu. Sono il poeta stanco, figlio dei figli miei, e non guardarmi strano, perché anche tu lo sei, figlio dell'energia, cellula senza età, che il cosmo sei inventato, fragile eternità. Sono il poeta stanco che non ce la fa più, stanno affogando il mare, stanno asfissiando il blu. Passando l'altra notte tra il Tevere e la luna, ho visto su dal ponte due baffi come i miei. Ci ho visto il protoplasma, pensiero in libertà. Stagione senza tempo, che tempo no, non ha. Sono il poeta stanco, che non ce la fa più, che venne un dì dal mare, o scese giù dal blu. Sono il poeta stanco, guardarmi strano, perché anche tu lo sei, figlio dell'energia, cellula senza età, che il cosmo sei inventato, fragile eternità. Sono il poeta stanco che non ce la fa più, stanno spezzando il cuore ai figli di Gesù. Senza età,